chissà se le autorità competenti, decidendo di annunciare proprio in questo fine settimana che a partire dal prossimo autunno anche le cittadine di sesso femminile potranno accedere alle accademie militari, hanno scelto la data per solennizzare la giornata dell'8 marzo. I giornalisti che hanno riportato la notizia certamente non ci hanno pensato affatto. Tanto è vero che hanno messo in rilievo soprattutto gli aspetti tradizionalmente pittoreschi di una novità del genere. Si sono chiesti se la presenza di militari d'ambo i sessi nelle stesse caserme non potrà dar adito a molestie sessuali, come se l'incontestabile fatto che oggi in quelle caserme ci siano solo maschi escluda totalmente l'ipotesi, e si sono affrettati a far notare che le future allieve ufficiali dovranno accontentarsi di un look assai castigato. Il Corriere della Sera, il 6 marzo, è riuscito a inserire tanto nell'occhiello dello strillo in prima pagina quanto nel sommario dell'articolo a pagina 17 l'importante precisazione per cui le divise saranno di linea semplice, non saranno ammessi gioielli e il trucco dovrà essere ridotto al minimo, che è un'ingiustizia se ci pensate bene, perché i militari maschi, con la loro storica passione per le uniformi, con tutto l'annesso apparato di galloni, alamari, pennacchi, medaglie, nastrini e via dicendo, sono certamente il gruppo maschile più interessato alla moda e alle esibizioni decorative. Ma si sa, il giornalismo ha sempre identificato le problematiche femminili e le tematiche sartoriali, e evidentemente chi ha avuto l'incarico di coprire quella data notizia non ha visto perché la cosa non dovesse valere nell'ambito militare. Si dica quel che vuole, le vecchie convenzioni funzionano sempre. Di taglio delle uniformi e della possibilità di abbinarvi qualche gioiello fuori ordinanza non ha parlato invece il ministro Andreatta, che ha spiegato in compenso, io li ho letti sul manifesto dello stesso 6 marzo, i motivi per cui, nonostante certi ritardi parlamentari, ha deciso di dare una spinta all'ipotesi del lavoramento femminile. Gran parte del lavoro nelle forze armate, ha detto, è di tipo logistico, per mestieri e per competenze professionali che sono gli stessi della vita civile. Non si vede quindi perché io debba limitarmi ad arruolare solo metà dell'universo umano del paese. Dal punto di vista delle forze armate è sicuramente un vantaggio poter contare sulle vocazioni femminili che abbiamo constatato sono numerose. Ecco. A pensarci bene, anche questa è una strana dichiarazione, perché visto che tutti nell'esercito, in marina, nelle aviazioni, visto che si fa più o meno le stesse cose che si fanno fuori, dice Andreatta, tanto vale che le facciamo tutti. Forse è vero, sì, probabilmente è vero. Nelle forze armate c'è posto per specialisti di tutti i tipi, c'è posto per cuochi e artigiani, per scienziati e zappatori, per sarti e giuristi, per operai e dattilografi, per programmatori e per veterinari, e sono tutte attività che vengono ormai svolte su un piano di maggiore o minore parità da uomini e donne. Ed è da parecchio che le autorità militari presentano questa realtà come dire pacifica e civile, come l'unica realtà dell'organizzazione militare. Se l'esercito è una specie di grande falange di lavoratori, di pacifici lavoratori, come quelle che sognava il socialismo utopico nel secolo scorso, evidentemente deve aprirsi a tutti, specie in una fase storica in cui i problemi della disoccupazione tendono fastidiosamente a riproporsi. Purtroppo chi ragiona così si dimentica sempre di precisare che se gran parte del lavoro dell'esercito è di tipo logistico, questo non significa che gli eserciti siano strutture puramente logistiche. Sarà una banalità di quelle che uno si vergogna di menzionare, ma gli eserciti in ultima analisi servono per fare la guerra, e chi ne fa parte deve comunque finalizzare le sue attività quali che siano a questo interessante obiettivo generale. E l'unico modo di fare la guerra noto a tutt'oggi è quello di sfruttare la tecnologia storicamente disponibile per ammazzare più nemici possibili. Minacciare di ammazzare più nemici possibili esponendosi al rischio di farsi ammazzare a propria volta. Sì, è una cosa che sanno tutti, anche se non tutti ritengono che sia il caso di dichiararla sempre, e anzi i più pensano sia meglio sottintenderla con discrezione. Ora, io non credo che il ministro, con la dichiarazione di cui sopra, abbia inteso dire che alle donne nelle forze armate saranno destinate solo le competenze logistiche e professionali compatibili con la vita civile, escludendoli per esempio dalla funzione combattente. Andreatta è troppo un buon democratico per sapere che questa sarebbe una discriminazione. Evidentemente intende aprire all'altra metà dell'universo umano del paese e tutte le potenzialità della vita militare, nessuna esclusa. E allora non sia timido. Lo dica. e lo dicono tutti quelli e quelle che la pensano come lui, perché le possibilità sono soltanto due: o le donne vengono ammesse nelle strutture militari per esservi discriminate, o vi entrano per poter ammazzare e farsi ammazzare, nella presunzione che, nonostante gli effetti della divisione, di una divisione del lavoro ormai bibillenaria, a entrambe queste funzioni siano perfettamente in grado di far fronte. L'unica altra possibilità, alla quale naturalmente ci rifiutiamo tutti di credere, è quella che l'esercito oggi non serva a niente, che sia lì per consuetudine e tradizione, senza che nessuno abbia alcuna intenzione di utilizzarlo mai. In quel caso, chiunque ne faccia parte, uomo o donna, non avrebbe altra funzione che quella di contribuire a una criminale dilapidazione delle risorse nazionali, senza poter dare